Componimento 102° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Cesare, poi, che il traditor d'Egitto li fece il don dell'onorata testa, celando l'allegrezza manifesta, pianse per gli occhi fuor, sì come è scritto. E Annibal, quando all'imperio afflitto, vide farsi fortuna sì molesta, rise fra gente lagrimosa e mesta, per isfogare il suo acerbo despitto. E così avven che l'animo ciascuna, sua passion sotto il contrario manto, ricopre con la vista or chiara or bruna. Però s'alcuna volta io rido o canto, facciol per chi non ho se non quest'una via da celare il mio angoscioso pianto. Fine del componimento.